Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera a Maurizio Cazzavara, un orario svizzero stasera con Michele Tosoni in regia. Buonasera a Renzo Picchi, nel progetto, nell'arte, possiamo dire nel dubbio. Nel nome nel dubbio. Nel nome nel dubbio. Buonasera, come buonasera, stai? Buonasera. Hai fatto un buon viaggio a Bologna? Sì, sì, sì, buonissimo, buonissimo. In mezzo alla nebbia, sì, purtroppo in mezzo alla ottimi nebbia. Viaggi. I viaggi migliori sono sì. Nebbia, nebbia è freddo stavolta, perché nebbia stasera... è freddo. Un buon freddo, sì, decisamente. Sì, meno male. Meno cioè, male. Si scalda il mondo, almeno noi stiamo al fresco. Esatto, si scalda il mondo, noi stiamo al fresco, ma noi siamo al caldo però. Sì, sì, per sì, suonare sì. Siamo sempre al sì, caldo. Sì, sì, sì, un ambiente accogliente. Benissimo, 22.01 in diretta chiaramente, questo mercoledì di rock, questo è Blu Radio Veneto, Rock Wave praticamente. Parliamo del tuo progetto, del tuo modo di musicare, l'idea di questo progetto che parte... Da quanto tempo, Renzo? Allora, il progetto è abbastanza giovane, parte dal 2009 di fatto. Le primissime cose hanno avuto inizio nei primi mesi del 2009. Dobbiamo sottolineare che è un progetto di registrazione tutta a casa tua. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sono stato abbastanza esigente nelle registrazioni e non sono il tipo che riesce a chiudersi una settimana in studio e venire fuori, fuori immediatamente con già il pro, con sì, il, quindi il cosiddetto, una volta si chiama il vinile, adesso sì. Si chiama il vinile. Pronto. Sarebbe bello il vinile, sarebbe bello. Però no, quindi ho dovuto adattare la registrazione a quello che sono. Quindi ho costruito uno studio anche grazie all'aiuto di amici che mi hanno consigliato, fonici, e poi mi sono messo lì e ho registrato a mio modo questo album. Questo album che dura, che ha 22 tracce. Sì, 22 22 tracce. Momenti, 22 dimensioni, 22 ritratti, 22... due idee praticamente che si sono sviluppate. Sì, sono 22 fotografie di quello che mi circonda e anche di quello che è un po' il territorio nel quale vivo. C'è molta provincia. E Bologna è provinciale, beh, insomma. Sì, è provinciale. Sì, sì. Sì, è provinciale. Si dice che Bologna è un paesone. Ecco, vabbè. Ecco, figuriamoci la provincia di Bologna, che cosa può essere. No, ci sono queste fotografie anche di quello che mi circondava. Avevo voglia di fotografarle così come sono realmente, senza dare a loro un'impronta fasulla, epica o inventata. Un'impronta giusta. Un'impronta reale. Un'impronta reale. E i pezzi li avevi già pensati qualche tempo prima e poi hai deciso andiamo avanti, lo facciamo. I pezzi sono quasi contemporanei delle prime registrazioni. Ah, direttamente. Ho iniziato da poco a scrivere in italiano, prima scrivevo in inglese, facevo tutt'altro genere. Tu facevi punk? Sì, facevo. Eri un pacchettaro. Facevo anche punk. È arrivato il nostro direttore artistico, ecco. Alberto. Ciao. Okay, si faceva il punk? Sì, sì, sì, sì. Ho lasciato pianoforte classico, ho comprato un basso e ho iniziato a fare punk. Quindi... Bene. Hai lasciato il pianoforte classico, okay, cari ascoltatori, c'è un motivo. Il pianoforte classico ha una certa identicità, cioè una cosa molto importante per te il pianoforte classico. Sì, sì, sì, sì, è importante, cioè, comunque è una parte di me, la radice è quella. La radice è quella. Hai cominciato a suonare il piano, a imparare a suonare il piano. Sì, sì, sì, ho fatto 3 anni e mezzo di pianoforte classico e poi... Poi ti sei buttato a Johnny Rotter, non so. Sì. Non so. Poi Ramos. Sì, poi è stato l'inizio della fine. No. Poi comunque, cioè, sono corsi e ricorsi. Sì, sto certo. Tornando anche al pianoforte classico. Ecco, perché c'è un pezzo molto bello, si chiama Lettera, nel disco. C'è ancora il piano, però Lettera è significativo perché viene usato questo piano un po' particolare, che ha una certa età. Sì, ha una certa età, del 1874, quindi ha il suo perché. Ha il suo perché. Però chiaramente tu derivi dal punk. Certi pezzi si sente che derivano dal punk, anche dal punto di vista del minutaggio, sono molto brevi, essenziali. Sì, beh, oddio, dietro il minutaggio c'è anche una filosofia di significato. Tutto l'album è inteso come una serie di fotografie, di discorsi. Di flash, possiamo dire. Flash, sì. Cioè, la fotografia la guardi, sta lì, non è lunga, 12 pagine. Quello che ti deve dire è tutto lì te davanti. Te lo dice subito. Te lo dico subito. Non ho questa voglia di riprese, di girarci troppo attorno alle cose. Benissimo, allora, come sempre, come nella tradizione di Rock Wave, apriamo la finestra e abbiamo scelto un primo pezzo da sentire da disco. Non mi ricordo che numero è, ma Michele lo sa. 17, partiamo con un numero fortunato. Esattamente, lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Sì, ok. Scusa, ti disturba se ti parlo ancora per un'ora di dubbi e di cose, di sputi e di spose, di risate o di patate cucinate male, di rose tagliate, gelati in estate, di amici e cazzate, di pizze a metà. Mi rendo conto che mi segue a stento, il mio comportamento non è un argomento di conversazione brillante o costante, come i tassi di interesse, i figli, i campi o i conigli, canzoni e sbadigli, risveglie alle sei. Google dice che mi devo dare tempo per sentirmi meglio, forse per trovare un equilibrio ed evitare il momento del cambiamento o del ti disturba se ti rubo ancora un'altra ora parlando di sagre, di vino e zanzare in un befitto maggio sopra fosse 20 voglio, ti parlo dell'olio, ti parlo del suono dei camion che passano in strada alle tre, prendendo tempo e controllando il vento da che parte gira, si tirano le fila della discussione, lasciandomi andare sui binari, casa, chiesa, centro commerciale, vestendomi male, sto differenziando con poca onestà. Google dice che mi devo dare tempo per sentirmi meglio, forse per trovare un equilibrio ed evitare il momento del cambiamento o del pentimento per un cambiamento. Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, adesso presentiamo il pezzo, come si intitolava? Allora, questo era meglio. Mm-hmm. Che è il singolo, cosiddetto. No, beh, sì, singolo. Singolo, cioè il pezzo che può, trainare il disco. Sì, dai. Che è uno dei pezzi che può trainare il disco. Su 22, effettivamente, anche solo a statistica, due o tre ce ne possono stare. Non abbiamo ancora detto il titolo del disco. Allora, il disco si chiama Ossidrile. Mm. Ed è uscito per Garrincia Dischi, questa che è un'etichetta indipendente bolognese. Indipendentissima di Bologna, fortissima, che mi ha aiutato parecchio in questa avventura. All'inizio ero proprio in un mondo mio, uh-huh. E i ragazzi di Garrincia sono riusciti a far uscire. Come ti hanno sentito i ragazzi di Garrincia? Com'è stato l'approccio, il collegamento con loro? L'approccio è stato di vita vissuta, quindi ci siamo incontrati per caso. Io ero fan di alcuni loro progetti. Bologna, come ti dicevo, è un paesone, sì. Quindi alla fine ci si incontra spesso, certo. Ai concerti, ci siamo conosciuti così, hanno saputo che suonavo e è nata così questa collaborazione. Sì, tu gli hai fatto sentire qualcosa? Sì. E sono riusciti a fare questo piccolo miracolo che è questo album. Sì, perché adesso è un miracolo fare un album. Sì, è un miracolo, è un miracolo stamparlo, e Garrincia invece ha questa... filosofia dei dischi che si possono toccare. Che bello, i dischi si possono, perché adesso sì, i dischi non si possono più toccare. No. Si trova su internet, giustamente, è una cosa molto più veloce e molto, forse più economica anche. Sì, è più economica, però. Però non ha anima. Quando capiti davanti al banchetto di Garrincia, ci sono tanti dischi che hanno vari materiali. Mm. Alcune copertine con materiali particolari. Non dobbiamo sottolineare che la copertina l'hanno fatto loro. La grafica. Sì, la grafica anche è stata un progetto che abbiamo realizzato insieme. Questa è in carta riciclata, quindi è anche una questione di materiale. Sono molto attenti. Cioè, ma tu hai detto una cosa giusta: è bello vedere i dischi, cioè i CD materiali, cioè fisici. Sì, è bello, allora, nel pacchetto. È ovvio che viviamo in un mondo, certo, in cui dire questo è completamente anacronistico. Lo so, no? Lo so. Cioè, lo so. I dinosauri che sì, entrano dalla porta. però è bello perché gli dai proprio una fisicità, dici questa è musica che ho in mano e esiste, non è così lanciata nel... C'è sì, un lavoro dietro, vedi le grafiche, un progetto anche di filosofia. Adesso io sono un po' fissato da questo punto di vista nel mondo analogico, del mondo così concreto. Il libretto di Ossidrile è stato battuto interamente a macchina da me, sono Olivetti. Lettera 32 come una volta. Sì. Perfetto, classico. Sì, quindi non c'è niente di digitale lì dentro, è stato tutto fatto a mano. E poi passato in secondo tempo. È bello così, secondo me sì, è una cosa molto bella. Sì, dà un valore in più. Sì, la ricerca delle origini, qualcosa che ti senti te dentro praticamente. Sì. So che con la tecnologia si riesce a trovare, a velocizzare tutto, però insomma non c'è anima con la tecnologia. Io poi sono anche un programmatore, quindi. Eh sì, appunto. Però, vedi, sì, però è bello anche chiudi staccare. Chiudi la finestra del programmatore e ritorni adesso. È bello staccare. Gli estremi. Ok, 22:12, adesso abbiamo presentato il primo pezzo dal disco, adesso presentiamo il primo pezzo dal vivo, Renzo. Allora, il primo pezzo dal vivo si chiama Lavorare, è il pezzo con cui mi piace aprire ultimamente i miei concerti. Per nessun motivo particolare, non è sicuramente un singolone, però mi sembra che dia una bella impronta del periodo in cui viviamo. Certamente, ok. E fa più o meno così. Pazienza, ci vuole esperienza, serve professionalità, un impiego di responsabilità. Davanti a un volante o dietro a un pulsante, nell'anno fiscale, nella stagione balneare. Lavorare è responsabilità, professionalità. Lavorare è fortuna. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Un critico, quando ha cominciato la recensione, ha scritto: è un disco fatto in modo semplice, chitarra e voce con qualche fiato. Ma non è un con qualche fiato, è un grande fiato. È un grande è un fiato. Grande fiato. Citiamo chi suona il maestro tromba. Luca De Marchi è un jazzista che ha accettato, è stato molto fortunato, ha accettato di collaborare in questo album e spero anche nei futuri. Certo. Ha dato un contributo enorme, perché quando io l'ho pensato avevo già in mente qualche linea. Esattamente. Qualche linea. Cari ascoltatori, voi non lo sapete, ma prima Enzo ne abbiamo parlato, lui ha detto una cosa molto bella: ha costruito i pezzi con l'idea che una tromba potesse inserirsi nei pezzi. Sì, che su alcuni pezzi c'era proprio lo spazio, c'era la possibilità ai tempi di avere una tromba con un fraseggio da tromba. E lui è riuscito invece ad avere anche quella spinta in più per riarrangiare alcune cose e inserire questi soli incredibili che stanno nell'album. Molto bravo, sì. Sì, decisamente, dà un suono particolarissimo, sì. È quello importante. Questa tromba, la tromba non è punk, assolutamente, ma può essere anche punk, sì, in alcuni momenti. Sì, sì, sì, decisamente. Allora, c'è da svelare anche questo grande mago di Oz. Molte parti sono state scritte, ma molte altre sono anche improvvisate. Ah, durante i nostri concerti le parti di tromba sono totalmente improvvisazioni jazz, quindi non c'è mai un concerto uguale a un altro. A volte i soli durano di più, a volte di meno. È tutto comunque a seconda della serata. È un bel approccio che mi piace. Quindi c'è un'apertura totale, non c'è nessuna chiusura, c'è improvvisazione. No, no, c'è improvvisazione. C'è la voglia di cambiare proprio lavorando, facendo, sì, trovando. Sì, sì, sì, sì, è sulla strada. È sulla strada, mentre, all'americana. Mentre sei lì, se una serata è particolarmente malinconica, la tromba uscirà particolarmente malinconica. Se una serata è allegra, può essere che il solo esploda in qualcosa di diverso. No, parlato dell'America, perché cari ascoltatori, questa è una cosa che devo ribadire, mi fa molto piacere. Renzo, parlavamo prima, chiaramente, prima di iniziare il programma, c'è un'ispirazione che corre sul filo dei 22 pezzi, ispirazione, non dico targata Philox, ma c'è un collegamento, un amore molto forte per Philox. Philox è un cantautore, grande cantautore, dimenticato. Sì, assolutamente dimenticato. Sì, Philox mi ha ispirato moltissimo anche come filosofia di scrittura. Scrittura topical... era un giornalista, quindi una scrittura veloce, sintetica. Sì, reale. Anche lì diretta. Diretta. Senza mai ovviamente tralasciare la lingua, la forma, la metrica, però Philox riusciva con la musica a scrivere del proprio tempo. Certo, del cioè, proprio ascoltare tempo. Le canzoni di Philox vuol dire vedere un qualcosa, un'immagine vera di quello che è stato un momento. Altri cantautori di protesta hanno scritto cose più, come dire, ispiranti forse, sì. Però lui è riuscito a dare proprio un'impronta reale. Sì, non aveva mezze misure. Quando doveva scrivere, scriveva e basta, sì, non c'è poco sì. da fare. Ecco, da questo punto di vista io cerco di fare il possibile. Tu scrivi le cose che pensi adesso, sì. Cose reali, sì, non ci sono tanti giri di discorsi, tanti giri armonici, voluttuosi come si può chiedere. No. Non ci sono riprese, molto spesso quando la canzone finisce esatto. E basta. Anche se però dal vivo ci può essere una reprise. Sì, ci può essere solo di alti tromba. Ok, sentiamo un altro pezzo da disco, da traccia, Michele, ti ricordi? Numero uno, dice Michele. Sì, numero uno, è Allarme. Allarme, che è proprio inizia il pezzo. Chiedimi un'immagine di me tra 20 anni, io ti disegno un pronto soccorso in fiamme. Allarme, allarme. Raccontami un'immagine di te tra 20 anni, tu dammi uno specchio, lo rompe e te lo metto davanti. Allarme, allarme. Figli del caso e del caos, c'è una festa fuori dalla finestra. Figli del caso e del caos, c'è una festa fuori dalla finestra. Segnatemi un'immagine di voi tra 20 anni, vi lascio un secondo in bianco. Allarme, allarme, allarme, allarme, allarme, allarme, allarme, allarme, allarme. Figli del caso e del caos, c'è una festa fuori dalla finestra. Figli del caso e del caos, c'è una festa fuori dalla finestra. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, questo è il pezzo di apertura, ti presenti. Abbiamo già sentito un altro pezzo da disco, però con questo pezzo ti presenti praticamente. Sì, sì, sì. Ti sì, fai sì. sentire, è questo, un pezzo dal punto di vista vocale abbastanza sostenuto. Sì, è parecchio sostenuto. No, beh, anche dal punto di vista di, anche, di anche musicale, del testo. Del testo, esattamente, tutto, ha un certo significato, deve essere così. Per mettere in chiaro le cose. Chiaro. Devo dire che è anche una buona dose di casualità, tutte le tracce del disco sono in ordine alfabetico. Esattamente, sì. È un bel caso che sia finita questa come, come prima canzone. Come in ordine alfabetico, una, una poteva valere l'altra, però questa devo dire che vale un po' di più. Ecco. Dal punto di vista proprio di costruzione, tu mi dicevi che avevo un intro. Originariamente avevo un intro. Sì, avevo un intro e poi sopra è stata costruita questo attacco di tromba. Questo meraviglioso attacco di tromba. Questo, con cui una chiave proprio di apertura di tutto il disco, che è effettivamente graffia. Esattamente, è stato molto bravo. Un'idea molto, molto interessante. Sì, sì, sì. La tromba dà una colorazione particolare, dà un certo senso alle cose. Non si usa spesso la tromba, o si usa in determinata maniera. Allora, De Marchi dice spesso che nella musica contemporanea troppe trombe fanno la tromba, cioè fanno la tromba classica. Se vogliamo fare qualcosa di diverso, bisogna ovviamente un attimo reinventare le cose. E lui l'ha inventato. E lui sì, si è messo lì e ha reinventato. Abbiamo lavorato molto bene. Sì. Bene, bene, una cosa bella, molto, molto interessante. Sì. Andiamo all'altro pezzo adesso, sempre, sempre dal vivo. Che cosa sempre fai? Dal vivo, sempre che figuriamoci se ti faccio qualcosa del CD. No, stavamo parlando di Filox. Sì, stavamo parlando di Filox. Io quest'estate ho preso. Sei innamorato? Già eri innamorato prima di Filox? Sì, da sempre, però mi dispiaceva proprio lasciare questa canzone alla sola lingua inglese, There But For Fortune. Che è la canzone, una delle canzoni più famose, l'ha scritta, l'ha cantata John Byte. Sì, cantata esatto. Anche tradotta in italiano. Sì, anche tradotta in italiano. Esattamente. Tu l'hai, adesso l'hai tradotta anche te, però è stata tradotta precedentemente sì, negli anni in 60. Un'altra forma, esatto, più un'altra o meno forma. Con una storia d'amore sotto un po' particolare. Esattamente. Non era proprio quella. No, era, mi pare che siano stati Tony Cucchiara e la compagna di Cucchiara all'epoca. Sì, esatto, esatto. Io l'ho presa e l'ho cercato di fare del mio meglio per darle la forma com'era, com'era. Esattamente. Quella più vicina all'originale. E è questa. Dammi una prigione, dammi una cella, dammi un detenuto la cui vita è tutta là. Ti mostrerò un uomo, ti mostrerò il perché. È solo fortuna, tocca a te o a me. Dammi un marciapiede, dammi una statale, dammi un senza tetto mentre dorme nel temporale. Ti mostrerò un uomo, ti mostrerò il perché. È solo fortuna, tocca a te o a me. Dammi le macchie di vino sul pavimento, dammi un ubriaco che barcolla sulla porta. Ti mostrerò un uomo, ti mostrerò il perché. È solo fortuna, tocca a te o a me. Dammi un paese prima dei bombardamenti, dammi una città con i suoi palazzi ed i suoi ponti. Ti mostrerò una terra, ti mostrerò il perché. È solo fortuna, tocca a te o a me, oh, a me. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Bravo Renzo, hai dato proprio un'interpretazione da sentito. Si sente, proprio c'è l'impressione che sei entrata dentro in questo pezzo, cioè ti è entrato i pezzi che ha fatto Philox, questo pezzo soprattutto, ti è rimasto dentro assolutamente. Beh, è un pezzo bellissimo, l'originale ovviamente è a chilometri di distanza da questo tentativo di traduzione, però le parole di Philox sono importanti, per lui erano importanti e anche per me le parole sono importanti, quindi dare una lingua a tutti comprensibile a queste parole mi sembrava un'ottima. Sì, un pezzo di denuncia vera praticamente. Sì, sì. Anche se poi è stato colorato un pezzo d'amore, ma non era propriamente un pezzo d'amore, no, un pezzo di denuncia. No, un pezzo di denuncia, c'è un messaggio di uguaglianza, c'è un messaggio di tolleranza che non. Sì, non si trova quasi più nelle canzoni attuali. È vero. Devo dire che il cantautorato ha preso altre strade, forse anche perché molto era già stato detto, quindi però non si finisce mai, no, di ridirlo, di ripeterlo, ecco. Anche il tuo cantautorato ha preso altre strade, però è un cantautorato reale, non va mai oltre determinati limiti, devi parlare delle cose concrete, quello che senti, quello che esprimi. Sì, mi riesce particolarmente bene quando parlo di qualcosa che conosco particolarmente bene. Quindi cerchi di esplorare meglio, di far capire alla gente. Sì, sì, perché ognuno vede con i propri occhi. E se si riesce a buttare con le parole fuori quello che si vede, si rischia poi anche di avere una reazione, di capire. Quando sono passato dall'inglese all'italiano, l'ho fatto proprio per questo motivo, che con l'inglese si può arrivare in tutto il mondo, certo. Con l'italiano però si possono evocare immagini, memorie condivise, un certo tipo di cultura, di sensazioni che con l'inglese un italiano difficilmente riuscirà ad avere. Quindi il passaggio all'italiano è fondamentalmente per quello. Tu sei passato dall'inglese all'italiano, cosa ti è rimasto dell'alone, del filone, del piccolo filone punk dentro? Ah, mi sono rimasti i bicordi. Spieghiamo ai nostri ascoltatori cosa sono i bicordi. Allora, devo dire che molte delle mie canzoni sono suonate attraverso l'uso di bicordi, perché mi è rimasto nel punk, si fa un largo uso di questa tecnica, questa accordatura, questa tecnica abbastanza semplice, sì, abbastanza semplice. E il resto corde aperte, pedalare, esatto, corde aperte, perché il punk, essendo una cosa che si consuma velocemente, 2 minuti e 35 al massimo, deve essere così. Sì, beh, 2 minuti e 35 per me è un pezzo lungo, ecco, un pezzo lungo. Ok, bene, 22 e 29 stiamo conversando piacevolmente su questo progetto, non possiamo chiamarlo tuo nome d'arte, possiamo progetto nel dubbio, è un progetto che va avanti e comincia 2 anni fa e poi va avanti, continua. Sì, sì, è un concept che sta andando avanti, nel dubbio non è proprio un nome d'arte, è il titolo di questa cosa che sto facendo. Ci sono un sacco di domande, un sacco di cose, di mancate risposte all'interno dell'album. Non do mai dei giudizi secchi su cosa è giusto, cosa è sbagliato. Lascio tutto aperto all'interpretazione. Mi piace questo dubbio, che è poi una cosa molto quotidiana. Certo, dubbio di tutti. Nel momento in cui si scende dal letto la mattina è un continuo. Sì. Esatto, siamo aperti. E l'altra traccia, Michele, che pezzo mettiamo su adesso? La traccia numero 15. Numero 15. Ok. Dici che rischio garantito di essere messo pessimismo. stare in coda sabato al casello, neanche quando ti abbandoni, neanche quando ti abbandoni, sempre vero, neanche quando ti abbandoni, neanche quando ti abbandoni, sempre libero. Mettere l'abito formale, non accendere. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Bene, Renzo, vuoi dare il nome del pezzo, cioè il titolo? Allora, questo era Libero, un altro pezzo che prima definivamo singolone. Sì, anche quello, sì. Abbiamo 22 singoloni in questo album. Sì, sì, però anche quello è accattivante. Sì, sì, sì. Ha una buona apertura, anche qua Luca ha fatto un lavoro eccesso. Devo dire, anche questo è un pezzo mediamente lungo, stiamo mandando inspiegabilmente pezzi. Mediamente lungo per le tue caratteristiche. Sì, per le mie caratteristiche. Il pezzo più breve dell'album dura 1:07. Sì, è vero, sì, 1:07. Sì, sì, sì, infatti devo dire che ho dato del mio meglio proprio. Beh, non vuol dire mica niente. La sintesi. È importante fare la sintesi. È importantissimo. Ma, decisamente, è molto, molto importante. È importante, poi non sempre semplice, però... Quando non c'è la possibilità di avere il trombettista, mi dicevi che suonavi in duo... Sì, suono da solo con chi ti dà una mano praticamente. Una mano. No, sono da solo, molti pezzi cambiano proprio aspetto. Ah, ho diverse versioni, come ho diverse versioni dei brani che non posso fare con particolari effetti o con pianoforte, che certo. Vorrei tanto portarmi dietro il una pianola, potresti portare dietro? No? Sì, ma è un po' complicato, si perde quell'immediatezza, certo. Allora molti pezzi cambiano faccia. Volutamente. Sì. Possiamo citare la data che fai fra qualche giorno? Sì, sì, sì, sì. Allora, venerdì suonerò al 909 di Castiglion del Lago. Quindi fai un bel giretto da Bologna. Sì, vado giù in Umbria e il giorno dopo ad Umbertide. Due date proprio umbre. Bene, bene. Sì, sì, sì. Sono suonato il mese scorso a Roma. E dove hai suonato a Roma? All'Art Noise. Circolo meraviglioso a Roma, un paradiso. Passano gruppi che altri circoli non ospitano. Non ospitano, in realtà è veramente una selezione musicale buona. E che dimensione hai suonato a Roma? Roma in trio. Ah, in trio. Sono riuscito a scendere. A trovare qualche altro compagno. Sì, sì, sì. La mia bassista, anche lei. Sì, citiamo i musicisti a proposito. Che hanno suonato sì, il trombettista. Francesca Pisto, la mia bassista storica, che mi ha accompagnato sin dai primissimi dalle primissime registrazioni. Mi piace moltissimo questa linea di basso netta. Sì. Lei è la parte ritmica. Della, non c'è della la batteria, ma c'è il basso. Non c'è la batteria. Cioè, insomma, leggermente, non è che sia così marcata. No, la batteria, no. Appena appena accennata. C'è sotto, si sente, se si presta attenzione. Cioè, quando non c'è, si sente. Ecco, appunto, quando ecco. Non c'è, non si sente. Però il basso è una funzione importante. Sì, è una funzione importante, specialmente in una scelta come la mia di non mettere percussioni. Mm. È stata una scelta di sottrazione. Ah, cioè, cosa vuol dire scelta di sottrazione? Vuol dire che nei brani l'orecchio a volte vorrebbe una batteria. Vorrebbe qualcosa di ritmico. Vorrebbe qualcosa di ritmico. Mm. Però il toglierla sotto è un po' come mi si nota di più. Se capito. Vado o se non vado. Ho capito. Quindi abbiamo la bassista praticamente. La bassista è Luca De Marchi, che è il trombettista. E poi ci sei te. E poi ci sono io e poi ci sono i ragazzi di Garrincia che ti hanno dato una mano. Altro collaboratore importantissimo, Giglio Bianco, è un latinista che mi Il pezzo Domus lo citiamo. Sì, citiamolo, citiamo. Non so se sia scaletta. Non è scaletta, però citiamo Domus, c'è un brano in latino che, nonostante la forma linguistica, parla di cose estremamente quotidiane come la scelta di una casa. Bello. Esatto. C'è un aneddoto che possiamo dirlo. Tu avevi scritto sì, il testo. Sì, avevo scritto un testo in latino. Il Giglio Bianco, il professore, l'ha letto e ha preferito prendere e creare più aulicità nel testo. L'aveva accettato. Poi però è stato ripreso, rimesso. Adesso ha una forma molto bella che mi è piaciuta. È stato molto bravo. Ok, 22:37, un altro pezzo live. Che cosa, Renzo? Allora, questo è un altro pezzo che non c'è sul CD. Bene, sono tutte novità per noi. Si chiama Sorriso. Sarà contenuto nel prossimo disco? Sì, sarà contenuto in Dow Jones. Che uscirà nel corso di quest'anno. Nel 2012. Non abbiamo fretta, non andiamo da nessuna parte. Certo. Basta farlo bene, come tradizione vuole. E questo brano controverso lo sto portando in giro in un tournée. Mm. Ha successo nonostante abbia una tematica attuale ma un po' particolare. Ok. Sai, ti ho visto ieri sera al telegiornale. Eri davanti a un plotone di giornalisti e telecamere, tutti molto ostili. Stavi nei pressi dell'uscita del tribunale, sembravi tranquillo come se fosse tutto normale, tranne quei cambi continui d'espressione del viso, tranne quell'ombra sinistra ferma sul tuo sorriso, che forse ci conquista e forse ci rilassa, e forse ci conquisterà o forse ci porterà a una nuova tornata elettorale dove ti presenterai, forse ti presenterai a una nuova tornata elettorale dove ti presenterai, forse ti presenterai. Tranne quei cambi continui d'espressione del viso, tranne quell'ombra sinistra ferma sul tuo sorriso, che forse ci conquista e forse ci rilassa, e forse ci conquisterà o forse ci porterà a una nuova tornata elettorale dove ti presenterai, forse ti presenterai a una nuova tornata elettorale dove ti presenterai, forse ti presenterai. L'Uradio Veneto. L'Uradio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, salutiamo anche Roberto che è arrivato, che fa parte dello staff chiaramente. Ok, benissimo, sento un pezzo che lo presenti dal vivo, è una new entry praticamente per noi, non è presente nel disco, sarà presente nel prossimo album, sì, eccetera, sì, sì, e sì, da sì. Parecchio, scuote un po' la platea. Scuote un po', c'è questa tendenza, a parte sempre più rara, di mettere la politica all'interno del cantautorato. Sì, questo è vero. La politica è diventata un tema tabù, non dovrebbe, a mio avviso, una esserlo. Una volta si usava spesso, poi gli anni Ottanta hanno fatto piazza pulita di molte cose. Anche del cantautorato. Anche del cantautorato. Assolutamente. Mi dispiace perché molti giovani adesso vanno a cercare canzoni politiche che sono un po' datate. Sì, certo. Probabilmente molte cose vanno aggiornate. Mi piace avere anche un po' la mia parte in questo. Questa canzone non parla esplicitamente di alcune cose. Esattamente. Fa un disegno, una fotografia di un momento. Un ragionamento. Un momento storico che è questo, dove i confini tra quello che è accettabile ed è inaccettabile sono veramente molto, molto, molto, molto labili. Sì, molto ridotti. I punti di vista diventano veramente difficili da inquadrare. Certo. Quindi, ecco, questo è un gioco che... E dal punto di vista musicale, come la costruisci, come... nel disco, come la costruirai nel disco? Chitarra e voce sempre o qualcosa d'altro? No, e quest'anno la parola d'ordine è osare, per dirlo bene, con i termini di Vogue. Quest'anno osiamo e probabilmente sarà prodotta, e probabilmente avrà addirittura due versioni. Ah, però. Uscirà... adesso vediamo. Però ci sarà sotto qualcosa. Quindi, ti danno una mano i ragazzi di Garrincha sempre? Sì, assolutamente, mi daranno una mano i ragazzi di Garrincha, collaboratori storici, ormai storici, e tutti quelli che vorranno salire con me su Dow Jones, vediamo un po' sì, su questo nuovo EP. Un critico ha scritto che hai una voce malinconica, io sono perfettamente d'accordo col critico. Una voce malinconica? Malinconica, cosa dici, Renzo, di questa definizione ti hanno dato? Non lo so, io... Ma una voce malinconica però che si esprime in modo anche forte qualche volta, decisamente. Guarda, questo spezza un po' il mio sogno di Festival Bar, però... Non esiste più, però. Questo mi ha dato una triste notizia, sono rimasto agli anni 90. No, può essere, non lo so. Nel senso positivo, non negativo. Sì, sì. Beh, la malinconia fa parte del cantautorato, dei cantautori. Non dico spesso e volentieri, però qualche volta aprono la malinconia. Sono cosciente di non scrivere canzoni da spiaggia. Ecco, beh, non sempre. È utile anche quello, Non sempre, per lo meno. Qualche volta può essere utile. Non si sa mai. Ok, 22:44, andiamo avanti. Piacevolmente, secondo me. Andiamo avanti però dalla scaletta che abbiamo fatto da disco. Sì, andiamo avanti dal CD. Sì, che traccia abbiamo scelto adesso? 12. 12. La sentiamo, ok? Sì. Mettiamo che si possa fare di Ferragosto, perché voglio mettermi un po' avanti e prenotare un posto. Gli amici più tradizionali verranno in infradito e musica, voglio la musica e gente col sorriso. Tu tienti libero l'agosto prossimo al mio funerale, prepara un bel discorso ma sta attento a non sudare, che agosto si sta bene, agosto è bello stare insieme, agosto si sta bene, agosto è bello stare insieme. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, questo è un pezzo, Renzo, che ha tante chiavi di lettura, musicalmente e non solo musicalmente. Sì, questo è il pezzo... Si chiama Insieme intanto. Sì, si chiama Insieme, diamo un nome alle cose. Nome, esatto. Questo è il pezzo forse più musicale di tutto il disco. C'è una ricerca abbastanza forte qua dietro. Quando l'ho scritta pensavo già a una tromba, e è una tromba un po' particolare. A New Orleans, quando muore un musicista jazz, viene organizzata questa parata, sì, questo esatto. Funeral jazz. Jazz Funeral, e lo stile cambia un pochino durante queste parate. Ecco, io volevo proprio quel suono, quell'incedere. Quando l'ho fatta sentire a Luca si sono illuminate tutte le lampadine e qualcosa è stato fatto. È stato fatto anche qualcosa di più, ci sono alcune citazioni anche musicali all'interno del brano. E, non solo, ma questo è anche il pezzo più estivo di tutti. Sì, più estivo, abbiamo parlato di pezzi estivi anche. Prima. Va bene. Questo è un pezzo pronto per gli stabilimenti balneari proprio. Beh, sì, i cosiddetti funerali di New Orleans sono funerali, però hanno una colorazione un po' diversa. Sì, è una colorazione perché mettendoci la musica sotto è comunque un modo... Una jazz band che gira, che parla, sì, che conduce la danza. È un modo per esorcizzare, sì, anche proprio la morte. Cosa, la morte. Esatto. Sì, il musicista se n'è andato, però la musica rimane, esatto. Noi continuiamo a suonare. Certo. E anche il pezzo comunque parla di un funerale, ma ne parla in modo scanzonato, leggero, ironico, quindi... ecco, questo è il brano forse sì, che ha più influenza musicale. Il testo come mai l'hai pensato, al di là dell'inserimento della tromba? Ah beh, il testo, devo dire che io non sono un grande amante dell'estate. E non so se... Infatti tu hai detto prima che chiamavi il freddo. Sì, meno male, è arrivato il freddo. Non sono un grande amante dell'estate e tutte le mie estati hanno questa costante di varie sfortune. C'è stata un'estate in cui proprio si era raggiunto il culmine. Ho detto: se questa è la tendenza, ragazzi, è meglio che prenoti adesso, perché il prossimo anno qua, non so come va a finire. Facciamo proprio, cioè, più in giù di così. Poi le cose hanno preso un'altra piega, però rimane questa costante. Perché, non so se hai scritto te, opera prima e probabilmente l'ultima. Sì, sì, sì. Un album così lungo non lo farò mai più. Questo, guarda, lo dico anche per radio. No, d'ora in avanti sicuramente continuerò a suonare, continuerò a portare avanti questo progetto. Certo, ma non prima, probabilmente l'ultima come l'ultimo 22. Come album. Come album, che non fraintendiamo. Come album. No, no, no, è chiaro, opera in questo senso. No, ci sono tante altre forme per... buttare fuori musica, canzoni, certo, altre anche molto più moderne sicuramente di un album, e adesso le sperimento un po' tutte. Sperimentiamo un altro pezzo dal vivo, dai, sono le 22.50 adesso, che cosa? Sì, le 22.50 mi sembra un buon orario per fare qualcosa di un pochino più intimo. Bene, abbiamo ancora un'oretta di tempo, ragazzi. Sì, ma poi magari dopo ci riprendiamo. Bene, sì. Cosa adora Renzo? Allora, ti suono questo pezzo che si chiama Porta. Ed è... Io ho ascoltato per un periodo molta musica brasiliana. Ah. Sentito un po' di tutto, dal punk alla musica brasiliana. Sì, sì, ho degli ascolti vari. Mi pare giusto che sia così. E qui dentro ho cercato di inserire un pochino di Sud America. Benissimo. È una promessa fatta davanti alla porta di casa prima di andare via. Ma una promessa è una promessa, è poca cosa se detta in fretta prima di fuggire via. Se poco ti importa, poco ti importerà. Se poco ti importa, poco ti importerà domani. Se una promessa è una promessa è una bugia, parole nel vuoto davanti alla porta di casa mia. Se una promessa è una promessa è una follia, insostenibile, impraticabile. Se poco ti importa, poco ti importerà. Oggi cosa ti porta? Che cosa ti porterà domani? Radio Rock Wave, l'onda del rock. Momento brasiliano presunto tale, insomma. Un po' presunto tale, sì, un pochino di influenza ho cercato di metterla dentro. Questa è raro riuscire a farla dal vivo, serve anche un ambiente un po' particolare. Sì. Non tutti i locali si prestano. Ascoltatori particolari, certo, particolari che quindi... non solito i panini, solito i Coca-Cola, assolutamente. Sì. No? Poi capita anche quello. Sì, ma non ma importa, cose cioè, va benissimo. Certo. Non è che non stiamo all'opera. No, insomma. Fa parte del quando mondo. C'è la possibilità, si fa. Bisogna suonare. Bisogna quando suonare. Non c'è, non la si fa. Esattamente. E qui c'è un po' di Sud America, un pochino ce l'ho messa dentro. Ma il Sud America ce l'hai messo in questo pezzo, ci sono altri riferimenti sudamericani in altri pezzi, no, non nel disco, c'è solo questo. In presunti, al di là dell'EP che farai, ma c'è il Sud America, esiste, è sempre presente nei tuoi concerti? Sì, un pochino sì. Mm. Sì. Ma secondo me è il cantautorato brasiliano. Sì, quindi Jobim. Sì, Jorge, certo, Alberto. Esattamente. È stato importante, sì. È stato un bellissimo momento nella storia della musica mondiale. Bossa Nova, tutti i movimenti che hanno influenzato moltissimo il resto del mondo. E mi piace ogni tanto inserire qualcosa, e farmi tu, influenzare anche, cioè, da questo. Tu mi hai detto che anche citi il reggae, quindi Bob Marley. Sì, sì, dal perché vivo, è una chiave di volta per trasformare un pezzo. Per... Sì, dal vivo, anche se non sono un grande amante del genere, Amichevole, che è un brano fortemente... in quella tromba è fortemente presente certo, nell'album. Quando non è possibile quando avere non la è tromba. Possibile avere con me la tromba, quel pezzo si trasforma e diventa un brano reggae. Certo, tu hai citato il reggae, tu hai citato il cantautorato brasiliano e il cantautorato francese ti ha influenzato, no? Al di là di Filox che sappiamo. Francese, non parlo no. di italiano, francese. Il cantautorato francese niente, no. Quindi i Brassè che hanno influenzato De André, cioè. No, niente da fare. A dire la verità ho anche molta poca influenza dal cantautorato italiano. Questo te l'ho confessato prima a microfoni spenti. Però, cioè, però sì, ognuno, possiamo accennarlo anche adesso. Esatto, ognuno porta una propria certo, strada. Una propria storia, una propria strada. È una propria storia, giustamente. Certo, certamente, sì, sì. Ho altre influenze che pescano da tutt'altro mondo musicale, quindi. Bene. Sì. Ok, 22:55 Michele, abbiamo un'altra traccia da disco? Sì, vai, facciamo sentire allora. Voglio che un giorno così non ritorni mai più. Sono sbagliato, non ho ben capito chi sei tu. È inevitabile la lotta tra bande che infuria per casa, che porta a bruciare le piante. Non è un amichevole, in guerra si pare, di notte si bara di più. Non è gioco di squadra tra noi, tra noi. Mi sono dipinto il soffitto e i muri di blu, così non li vedo e magari ti noto di più. Le lunghe lettere dettate alle stampe, sono pagine buone per alimentare le fiamme. Non è un amichevole, in guerra si paga e di notte si scava di più. Non è impossibile la pace blindata ed il gioco di squadra tra noi, tra Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E se questo è un pezzo che ho voluto fortissimamente far sentire, mi piace sì. Particolarmente, si chiama Maggio. No, questa è amichevole. Sì, amichevole, questa è amichevole. Sì, ha è un pezzo molto sì, divertente, molto accattivante. Molto ritmato, beh. Molto bene, ritmato. È questo che si trasforma in reggae. Quando sono da solo, sì, ha una bella ritmica questa. Ma fa bene, fa muovere. Sì, fa muovere. Fa muovere. Questo fa muovere, questo botta risposta tra tromba e chitarra. E quando non c'è la tromba, usi il reggae. Sì, ecco. Uso il reggae, uso sempre cose cose da muovere, da movimento. Sì, sì, sì, sì. A proposito di movimento, adesso scegliamo i tre dischi, dai, facciamo sull'isola deserta. Allora, tre dischi sull'isola deserta. Quello che vuoi, a tuo piacimento. Sono le 22:58 e l'ora è questa. Sì, l'ora è giusta. L'ora è giusta. L'ora è giusta. Allora, tre dischi dell'isola deserta. L'abbiamo citato prima, sì. Claudio Lolli. Non l'abbiamo citato. Non l'abbiamo citato, l'abbiamo citato a microfono spento. A microfono spento. È un momento di Lolli. Perché ti piace Lolli? Si avvicina ai tuoi percorsi. Si avvicina a quello che io intendo come concezione del cantautorato, come racconto del reale. Certo. Un certo Lolli, non tutto, primo ma Lolli. Il primo Lolli sicuramente sì. Un uomo in crisi. Ah, un uomo in crisi, benissimo. Un uomo in crisi, album che ha scritto a 23 anni, album bellissimo, profondissimo, che ho consumato. In vinile prima no, in CD. Purtroppo tu sei giovane. No, se ce l'ho in vinile però purtroppo ho consumato in CD. Ascolto moltissimo musica in macchina. E perché a proposito sono stati ristampati di recente i dischi di Lolli, tutti quanti in CD. Non era tanto semplice trovarli, si trovava, ho visto degli Zingari Felici, quello si trovava in qualsiasi parte, gli altri un po' meno. Cioè, il discorso del cantautorato, specie di nicchia, di nicchia. Quello è un disco che porterei con me. Porterei con me. Quindi Claudio Lolli, assolutamente. Assolutamente. Poi un disco che ma non so chi può conoscere o meno, Kind of Like Spitting si chiama, il gruppo / progetto di questo cantautore americano, Benjamin Barnett si chiama. Bridges Worth Burning si chiama l'album. È stata una folgorazione per me all'epoca. Quando si parla di che periodo? Si parla del 99, 2000. Comunque i primi, sì, quegli anni lì. Quello è stato un disco che mi ha fortemente influenzato. Decisamente. Sì. Il passaggio da un certo tipo di punk a un certo tipo di musica alternativa che stava evolvendo, che poi è diventata l'indie attuale. Certo. In quell'album per me è stato un fondamentale, perfetto, diciamo, lo porto perfetto, sempre con me. E il terzo è Pornography, The Cure. Ah, ci fermiamo, come mai i Cure? La trilogia è sempre lui, lo ami particolarmente lui. Sì. Riesce sempre a fare cose diverse ogni volta che anche se il pezzo, se il disco non è bellissimo, riesce sempre a dare le pennellate. Pornography, The Cure, quello l'ho stato è consumato, sì, anche quello un disco che ho consumato e che porto sempre con me. Quello non posso non ascoltarlo. Io, a me piace praticamente Disintegration. Disintegration? Sì, perché è psichedelico. Sì. No, per me era un po' troppo curato in alcune parti. Sì. Bello anche Disintegration. Poi è stato introdotto dopo nel filone della... però pornografia so perché anche tutta la genesi di come è stato scritto, delle condizioni in cui è stato scritto, è un album vero, mm-hmm. si sente che è un album reale, a me piacciono le cose vere. Sì, forse di Integration un po' troppo prodotto. Sì, quando si inizia a stare troppo bene... No, è bello, è bello, sì, bello, no, bello, bello, bellissimo. Di Disintegration ci sono dei bellissimi brani anche come parte con Plain Song. Mi ricordo un loro concerto. Li hai visti dal vivo? Sì, dal vivo li ho visti. Un'apertura con Plain Song. I volumi erano tutti sballati, le casse erano talmente alte che per la prima volta ho visto l'aria vibrare davanti a me. Però. Penso di aver perso parte dell'udito in quel momento, però l'impressione del primo attacco di Plain Song con questo. In questa tastiera e lui, sparata e l'aria in quel momento che è uscita dai coni mi è rimasto impresso. Sì, sì. E lui come li guidava? Eh? Lui come li guidava? guidava bene, sì sì, no. I Cure sono veramente sul palco stoici, li ho visti suonare anche sotto la pioggia, rischiando fortissimo, non c'è niente li può arrestare. Visto che stai piacevolmente conversando sui dischi, ne aggiungiamo altri due, dai. Ne aggiungiamo altri due. Allora, i fondamentali. Sì, quello che vuoi, chiaramente, a tuo piacimento. Dunque, vediamo un po'. Io però purtroppo vado sempre sulla musica straniera. Non importa, assolutamente. Andiamo molto in là. Joy Division. Cosa? Non ne abbiamo fatti tanti. No, Unknown Pleasures, anche quello mi ha... Ti ha folgorato? Sì. Come stato... Robert Smith adesso ti ha folgorato anche lui. Sì, sì, sì. Un disco che porterei ovunque, anche quello l'ho ascoltato moltissimo. Il basso di quel disco. Sì, il basso è fondamentale su quel disco. Fondamentale. Mamma mia. Sì, sì, sì. Quelle linee... Ti entrano dentro. Sì. Sì, non riesco a pensare altro, non avrai alcun basso al di fuori, non avrai altro basso al di fuori di me. È vero. E poi concludiamo in bellezza con quale? Allora, un altro album imprescindibile, cosa potrebbe essere? The Decline of the British Sea Power. Cosa dice Alberto decisamente? Un'ottima scelta. Attualmente è il mio gruppo feticcio, quello che adoro, non ho razionalità riguardo a loro, per me è il miglior gruppo in circolazione, so di dire delle cose che il 99,9% della popolazione non condivide, però hanno questa sonorità frutto di più commistioni di tutto quello che è passato nel Regno Unito negli ultimi 20 anni. E mi piacciono moltissimo. Poi anche i testi sono fortissimi, hanno moltissimi riferimenti letterari all'interno. Sì, assolutamente. Molto inglese, è una scelta molto inglese la tua. Sì, molto inglese. Tre mi pare su 5. Sì, tre su 5. Ok, 23:04, abbiamo ancora un'oretta circa. Possiamo suonare qualcosa, Renzo? Cosa dici? Ma sì, possiamo farlo. Che cosa? Suonerò un brano che per la prima volta ho suonato proprio qui a Padova. Ah, bene. Sei andato a fare un concerto? Sì, al Fahrenheit, questo locale qui da noi. Di Padova aveva fatto questa bellissima serata per raccogliere fondi per il terremoto dell'Aquila. Stavano ancora cadendo, certo. I calcinacci. E fu una bellissima serata e scrissi questo brano proprio per quell'occasione. Si chiama Decidere e parla di un certo tipo di condizione umana nella quale non si può far altro che stare al gioco e tirare avanti. Del canile dietro casa, abbandoniamo le speranze, apriamo le danze macabre nel nuovo corso delle cose imposte, ricordiamo l'orrore, chiamiamo un dottore, rubiamo le ore a sabato. Decidere, decidere, decidere una favola oggi non è più possibile, possibile, possibile. Compriamo più garze, lasciamo le stanze, vivremo benissimo anche dentro le ambulanze. Decidere, decidere, decidere una favola oggi non è più possibile, possibile, possibile. Compriamo più garze, lasciamo le stanze, vivremo benissimo anche dentro le ambulanze. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, mi dicevi che c'era un video di questo pezzo. Sì, sì, sì, c'è un video della prima volta che l'ho suonato di tutta la serata. Poi la primissima volta è stato bello. Non avevo mai partecipato a prima a un progetto di questo genere. Sì, non avevo mai partecipato a qualcosa in cui la musica si trasformasse concretamente in aiuto. Ho capito. Per quel poco che è stato, per me è stato comunque bello. Una cosa positiva. Sì, nella vita faccio tutt'altro, quindi riuscire a dare anche un briciolo in più mi è piaciuto. È stata una bella sensazione. Certamente. E questa versione che hai dato in questo momento, il critico ha scritto che tu ti avvicini a Buckley, non ha citato né Tim né Jeff. Io personalmente ti avvicinerei, chiaramente, tra virgolette, a Tim più che al figlio. Sì, conosco superficialmente tutti e due, però probabilmente sì, a Tim. Visto che Tim è già dell'epoca di Philox, sì. Siamo là praticamente, sì, sì, sì, quindi sì, agli anni 60. Fortissimi questi confronti in cui... No, ma non... più che altro per la caratterizzazione del blues. In questo pezzo hai caratterizzato nel blues, almeno nella parte finale del pezzo, secondo me. Sì. Quindi allora... Questo è il motivo della citazione del critico. Sì, ma alcuni brani, quando non ho i miei compagni d'avventura, li trasformo un pochino, e questo volevo proprio farti sentire come alcune cose cambiano dall'album alla versione live. Certamente. Poi anche l'intenzione non è sempre la stessa, è sempre diverso. Mi piace variare. A proposito di variare, tu hai detto... prima, qualche minuto fa, che nel disco nuovo ci sono delle variazioni notevoli, ci sono dei cambiamenti, degli allargamenti. Sì, sì, probabilmente ci sarà anche una batteria grande assente in questo nel disco precedente. In questo disco. Sì, sì, una batteria. Anche se il basso dava la funzione della, sì, batteria. Sì, il basso funziona, il basso lo riportiamo a fare il basso. Esattamente, Francesco, ne ha voglia. La bassista ha voglia di tornare a fare la bassista. E mettiamo anche una bella batteria sotto questi pezzi. Poi probabilmente uscirà anche una versione così. Sì. Però diciamo che mi piace provare qualcosa di nuovo quest'anno, anche perché sì, non mi piace rimanere fossilizzato, non l'ho mai fatto e non è questo il momento giusto per farlo, probabilmente. Facciamo qualcosa di nuovo, evolviamo. Certamente. Poi il discorso parte sempre dal motivo del dubbio, cioè nel dubbio, ripetiamolo, è solamente un continuo progressivo allargamento degli orizzonti musicali. Sì, si parte così e poi si continua in modo diverso. Sì, mi faccio delle domande, mi do delle risposte, cambio strada, ritorno indietro. Non ci vedo un'apertura totale, sì. Non una chiusura. Sì, no, un'apertura totale, non una chiusura. Sì, sì. Ecco, da quello che esce da questo album sembrerebbe una strada granitica, nel senso non ho grandi concessioni, non si drille, è tutto estremamente rigido, è tutto estremamente impostato, sì, su una certa linea. Qualcuno l'ha scritto, un critico ha scritto quello che tu hai detto in questo momento, sì, leggermente impostato. Sì, sì, sì, è bene dare un'idea all'interno dell'album, però non è detto che l'album dopo debba essere la fotocopia, come non è detto che debba cambiare completamente il genere. Mi piacciono le evoluzioni. Benissimo. Se seguono una filosofia di base forte. 23:12, salutiamo la Nicoletta, si ascolta sempre. Ciao Nicoletta. Adesso non so, in scaletta c'è qualcos'altro? No, abbiamo finito tutto, allora facciamo un altro pezzo live. Facciamo un altro pezzo, sì, live, sì, live. Va benissimo. Allora, il prossimo brano di solito lo uso per chiudere. Ma non stai mica a chiudere. No, abbiamo siamo tempo, lungi dal chiudere. Esattamente. Però è bello movimentato e si chiama Via. Perfetto. Sveglierai male solo per poi affondare tra le cose che devi fare, e mangerai male di fretta una fetta di torta fredda, lavorerai male distrattamente pensando a niente, ma la sera ti porterà via, ma la sera ti porterà via, ma la sera ti porterà dove c'è ancora la neve, dove c'è ancora la neve. Rockwave, l'onda del rock. Stiamo sempre ascoltando Rockwave. Stasera abbiamo Renzo Picchi, nel dubbio, possiamo chiamiamo Renzo, sì, Renzo, sì, Renzo, sì, Picchi, sì, va benissimo, che presenta nel questo dubbio progetto, il titolo esattamente. E stiamo conversando piacevolmente sul tuo modo di musicare. Come abbiamo detto a microfono spento, Renzo sa anche suonare la chitarra, hai dato un impulso a questo pezzo. Qualcosa. Decisamente. Ogni tanto qualcosa cerco di fare. Cioè il mio strumento è il pianoforte. È il tuo strumento, il pianoforte. Quando è una cosa diversa, quando hai studiato uno strumento in modo per quanto tempo profondo, hai studiato? 3 anni e mezzo, quasi 4. È ovvio che è un'altra cosa. Sedersi ma davanti... era quello là che lui è citato con la lettera, no? Utilizzato in lettera. Sì, sì, sì, sì, è quello. Studiato su quello, quindi è una cosa un po' se con tasti durissimi, una cosa. L'accordatore è riuscito a fare quello che ha potuto. Quello che poteva, non avevo soldi per rifare completamente la meccanica, però. Ma che sensazione ha sia suonare uno strumento del secolo del 1800? Beh, ci si chiede chi ha suonato lì sopra prima di te. Quello, questa è la prima cosa importante. E quanto poteva essere più bravo di te. Però nella musica c'è sempre qualcuno più bravo. Quindi nel momento in cui si inizia a fare musica, secondo me bisogna mettersi nell'ordine di idee che nessuno è il messia venuto per insegnare musica agli altri. Qualcuno più bravo di te si trova sempre. Quindi venuto a patto con questo, la sensazione è curiosità. Solamente curiosità e poi anche bellezza nel sentire le differenze. Il mio maestro di pianoforte aveva uno Yamaha sfavillante bianco, non c'entra niente, bellissimo, con questo suono cristallino, questi tasti perfettamente pesati. Studiare invece su un catafalco dai tasti dei mattoni, è stato formativo. Diciamo, era un ragazzo che è venuto qua a suonare, che lui aveva suonato su uno strumento del 1800, aveva una paura tremenda a toccarlo, aveva paura di rovinarlo, era un violino, aveva paura di rovinarlo, di toccarlo in una certa maniera, aveva una quella sensazione. Un strumento meraviglioso. Sì, beh, 800, però. Diciamo che poi probabilmente ci si trova ad avere anche dei pezzi di storie diverse. Certo, il certo, mio certo. Proveniva dal teatro comunale di Bologna. Era che aveva una storia, anche quello allora, decisamente. Sì, aveva una storia, probabilmente ci facevano le prove per balletti o cose simili. È probabilmente anche una cosa diversa rispetto a un violino. Certo, certo, certo. Sì. Okay. Io l'ho usato per formarmi ed è stato interessante. Devo dire che la differenza la sento quando ho in mano una chitarra è una cosa, quando il piano è un'altra cosa. Quando il piano è un'altra cosa. Sì. Mi pare che non abbiamo ancora sentito il pezzo in latino, però te l'ha scaldato. Sì. Ecco. Lo sentiamo il pezzo. Lo possiamo mettere su. Sì, adesso ti ricordi che traccia è? Si chiama Domus e dovrebbe. Sì, ne parliamo. Ecco, ne parliamo un momento. Abbiamo già citato prima, adesso, mentre Michele lo cerca. Ecco, il brano in latino ha anche un'impostazione di arrangiamento anticata. Sì, del testo abbiamo già parlato, ci vuoi proprio parlare dell'arrangiamento? Sì, c'è questa musica un pochino anticata, questa tromba che segue un controcanto. Insomma, poi io sta ricerca dire, dell'appartamento in latino. Sì, una ricerca di una casa. Una casa. Ecco, c'è un aneddoto. Io ho abitato a Granarolo dell'Emilia e un anno il comune ha fatto uscire questo libro sulla storia di Granarolo che si intitolava Hic Manebimus Optimo. Qui staremo benissimo, solo che nel 1100 tutta la zona era paludosa. Quindi ho immaginato un mio lontano avo in quella zona all'epoca come poteva stare bene e quanto avrebbe invece preferito andare via. Certo. E questa è un po' la storia di Domus. Ok. Con di giorno stia Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ringraziamo sempre Michele, sta guidando splendidamente il programma dalle macchine, sì, praticamente. Sì. E io parlavo, cioè pensavo mentre il pezzo andava, sei andato proprio su con la voce, che difficoltà hai avuto, oltre a cantare in latino, andare su, su, su. Sì, beh, io mica semplice. Sono abbastanza predisposto a mettermi delle trappole da solo nelle canzoni. Però. Sì, sì, mi piace complicarmi la vita, e qui no, me la sono complicata proprio per bene. Piacevolmente però. Sì, piacevolmente, certo, niente di, niente di impossibile. No, qui va abbastanza su. Come mai va abbastanza su? Perché doveva essere così? Doveva essere così. Mi piace anche il canto gregoriano, esatto, ecco, volevo arrivare a quello preceduto, e questo brano un pochino si ispira leggermente, vagamente, anche nell'arrangiamento, anche nei suoni, in questo riverberone, sì, esatto, questo riverbero, questo esatto, suono. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sono andato, ma su un pochino. Dal vivo la fai, Domus? Sì, sì, sì, la è ben amata, ben apprezzata. È ben apprezzata. E, alcuni non capiscono che è latino fino a che non arriva proprio alle parole più, più, parole più, più. Sì. Sì, sì. Uno, una volta mi hanno detto, ma che cos'è? Sembra slavo, una cosa. Sì. No, aspetta, è latino. Sì. Beh, non è mica semplice, non è usuale sentire cantare in latino adesso. No, adesso ovviamente. Adesso no, una volta, una volta era molto, era l'inglese dell'epoca. Esattamente, quindi una volta si cantava sempre. Però adesso è sì, un sì, po' strano, ma è strano positivo, dai. Sì, beh, io da piccolo avevo studiato latino, poi ho preso tutt'altra strada, mi è rimasta la passione per questa lingua. Il punk in latino non si può fare, no? Ma secondo me sì, si può fare tutto, si può fare tutto col punk. Secondo me sì, anzi non mi dare troppe idee perché si sa mai come va a finire. 23:24 in questo momento, quindi siamo assolutamente in diretta Rock Wave con Renzo Picchi e il suo disco che ha inciso l'anno scorso, e il disco nuovo uscirà quest'anno, sì. Non si sa quando, ma uscirà. Sì, un po' cosa uscirà prima o poi. Sì, ma ripetiamo il nome del disco vecchio, dai. Il disco vecchio si chiama Ossidrile. Il tuo sito per cercare notizie su di te? Cioè. Allora, la cosa che uso più di tutte è Facebook, sembrerà una banalità, però è un ottimo strumento. Certamente. Mi piace usare strumenti che funzionano e attualmente Facebook funziona molto bene. Quindi cercare nel dubbio su Facebook porta qualcosa. Ho anche un sito neldubbio.it e poi la mia pagina sul sito dell'etichetta garrinciadischi.it. Se uno vuole anche il tuo disco fisicamente lo può richiedere a Garrincia. Sì, ci sono diversi modi, su iTunes, Amazon e così di via. I portali, eccetera. Sì, tutti i principali c'è. Oppure se lo vuole fisicamente sul sito, vieni ai tuoi concerti, per viene, i miei concerti. Esatto. si trovano nel sito i concerti, le date presunte, sì, già tutto sul sito, sul sito Garrincia. Tra l'altro partecipo anche alle compilation dell'etichetta. Questa estate è uscito il Canta 90, questa compilation con all'interno remake dei Tormentoni degli anni 90. Bene. E tu che Tormentone prossimo, hai fatto? Io ho fatto 50 special che nel Lula Pop. Beh, tu sei bolognese, vedi caso. Sono bolognese, ho accettato questa sfida e ho rifatto 50 special di Luna Pop. E è una compilation che sta per uscire. Ci sono i comunicati stampa proprio in questi giorni. Bene. Il 7 di gennaio quindi si chiama Calendisco. Questa un po' calendario e un po' disco, bello, 12 tracce con 12 artisti di Garrincia o amici della Garrincia, che un tema? Ha un tema, ogni canzone ha un mese. Ah, ok. Deve avere il nome del mese nel titolo o all'interno del testo. Certo. Alcuni sono brani originali fatti dagli artisti della compilation, altri sono delle cover. Io ho l'onore di aprire la compilation con un brano di un mio collega cantautore dell'etichetta che si chiama 33 ore, e apro con il brano appunto che si chiama Gennaio. Perfetto. Finalmente al pianoforte. Quindi interessante, molto interessante. E uscirà il 7 gennaio e ci sarà una presentazione a Bologna il 15. a leggere strutture. A proposito di presentazioni, hai altri concerti o quello in Umbria che devi andare fine settimana? A febbraio a San Miniato, a Pisa. Posto meraviglioso. Sì. E poi niente, è tutto sempre in divenire, quindi insomma l'anno è appena iniziato. E un concerto che ha fatto il Circolo Panenka in via Santa Bologna, quello è un concerto importante? È il concerto d'apertura di presentazione del disco. Sì, fondamentale, no? Quello fondamentale, è stata una bella serata. Anche il Circolo Panenka è un bel posto a Bologna, aperto da poco. E hanno un'ottima programmazione. Una cosa che mi piace dei locali giusti, diciamo, certo, è quando c'è una linea di fondo. E mi piacciono i locali che amano avere una linea diversa dagli altri. Ecco, il Panenka è uno di questi. Come l'Arte Noise a Roma, il Panenka a Bologna hanno delle. Chiameremo linee editoriali, no, chiamiamole programmazioni. Salutiamo i ragazzi programmazioni del Panenka, interessanti, allora. Sì. Benissimo, 23-27, quasi 28, adesso suoniamo. Renzo, che cosa? Allora, io ti farei un pezzo nuovo. Bene. Che sarà nel prossimo album, così andiamo avanti con le novità. Certo. È questo. Bene. Spesso di riflettere sulle conseguenze di una risposta data con troppa fretta. Ti capita sempre più spesso di pensare alle contingenze mancate, frutto di fraintendimenti. Tutte le disattenzioni del mondo non bastano a dare un verso ai rapporti e alle risposte che non hai, risposte che non dai, risposte che non hai avuto indietro e che non avrai mai, risposte che non hai, risposte che non dai, risposte che non hai avuto indietro e che non avrai mai. Mi capita spesso di riflettere sulle conseguenze di una risposta data con troppa fretta. Mi capita sempre più spesso di pensare alle contingenze mancate, frutto di fraintendimenti. Tutte le disattenzioni del mondo non bastano a dare un verso ai rapporti e alle risposte che non hai, risposte che non dai, risposte che non hai avuto indietro e che non avrai mai, risposte che non hai, risposte che non dai, risposte che non hai avuto indietro e che non avrai mai. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, è leggermente più lunga, cosa dice Alberto? Leggermente più lunga rispetto alle altre. Sì, facevo un'altra osservazione che dava qualche... Beh, ciao a tutti, no, all'inizio mi sembrava un po' il Cure. Può essere. Quello che uno ascolta poi se lo porta dietro, è inevitabile. Bene, pensa, bene. Avrei sempre voluto fare un genere musicale particolare che è il goth rock. Non so per quale motivo non mi riesce, nonostante io ne ascolti, ne abbia tanto. Ascoltato tanto, è un genere che non riesce a venire fuori da dalle cose che scrivo. Corte, non so il motivo, non mi chiedere perché. Prima o poi ci riuscirò, a forza di sbatterci la testa ci si riesce prima o poi. Si riesce tutto, basta avere costanza di fare. Sì. Questa si chiamava Risposte. Fa parte dell'EP nuovo, sì, Dow Jones. Quindi ce l'hai presentato quasi tutto l'EP nuovo? Sì, qualcosa, un buon 75%. Una cosa bella. E anche qua, a proposito, al di là del minutaggio dello scherzetto che abbiamo fatto qualche secondo fa, come tu giustamente hai detto, c'è un cambiamento. Ci deve essere. Sì, ci deve essere. Leggero, ma c'è. Leggero, ma c'è. La direzione è quella, però ci si evolve. Sì, sì, sì, assolutamente. Non vedrei altro modo per andare avanti. Insomma. Certo, quindi il progetto continua. Continua. Esattamente. Sì, sì, sì. Benissimo, adesso facciamo un pezzo da disco. Che sì, visto che abbiamo aggiunto qualche altra traccia. Abbiamo aggiunto qualche altra traccia. Mm. Sì. Che traccia hai adesso, Michele? 14. Ok, sentiamo. La tua voglia troppo presto, io del resto perdo penne molto spesso. Di essere nel dubbio non ti importa, questa storia l'hai vissuta già una volta. Dire che i problemi si risolvono da soli è come dire molte cose tutte false. Vivere con 100 sogni fermi nel cassetto e non avere più bisogno delle tasche. Quando penserò di me, scrivimi una lettera con tutti i miei errori, scrivila su carta vera, così posso toccarla e crederci un poco di più. Presto, io del resto mi confondo sui dettagli. Ci sono vincoli precisi e scorciatoie da imparare. Non saprei davvero dove cominciare. Quindi credo di doverti almeno 100 scuse, tutte pronte per coprire ogni mia falla. Vivere con 100 sogni chiusi nel cassetto di un armadio che non riesce a stare a galla. Quando penserò di me, no, scrivimi una lettera con tutti i miei errori, scrivila su carta vera, così posso toccarla e crederci un poco. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Se abbiamo parlato tanto, finalmente abbiamo sentito questo pianoforte Perotti. Eccolo, eccolo. Eccolo, il 1874. Sì, sì. Allora, è stata dura. È stata dura anche a registrare, mi dicevi. È stata molto dura a registrarlo. Ha una meccanica che ogni volta poveretto aveva una certa età, quindi... Sì, cigoli, martelletti che fanno un suono terrificante. È stata dura, però è riuscita bene. Però la linea poi, melodica dire... si è rimasta, non è proprio andata per no, i fatti no, suoi. No, è rimasta, ovviamente dal vivo la suono in un altro modo, con la chitarra certo. Completamente reinventata, però sì, al pianoforte così. È molto meglio. E il fonico cosa ci ha messo? Ha sudato le sette camicie? No, ho sudato. Hai sudato te le sette camicie? Sì, sì, sì, ho sudato io in questo caso, sì, sì. No, l'intervento esterno è stato per l'attrezzatura, per la tecnica di base e varie dritte. Ho capito. Però, le varie dritte quali sono state? Le varie dritte sono sull'insonorizzazione, su come usare un microfono valvolare. Ah, hai usato anche il tipo di microfono da usare, ho usato una replica di un Telefunken per insomma alcune dritte tecniche che altrimenti non avrei mai avuto. Non sempre su internet si trovano queste dritte. Il contatto umano è ancora, per fortuna, è ancora migliore di tutto. C'è poco sì, da fare. Sì, sì. Ecco, per registrare questo pianoforte ho dovuto dare veramente il meglio di te stesso. Quanto sì. tempo ci hai messo per registrare un pezzo? Solo quante per sedute, dai? Solo per il pianoforte è andata via una settimana. È una cosa molto particolare. Sì, sì, sì, sì. Un pezzo che lo volevi come doveva essere, cioè senza così. Così, sì, diciamo che anche come metodo metodo di registrazione, quello che ho usato, è molto sì, selvatico, potremmo dire. Lo-fi, qualcuno ha scritto, ma lo-fi è fatto bene, vero? Dai, non lo-fi, fatto... È un lo-fi dal punto di vista forse dell'intenzione. Sì, dell'intenzione. In realtà dietro c'è anche un mixing analogico. Quindi fatto... non c'è proprio lo-fi. Non c'è proprio lo-fi. L'intenzione, sì, detto giusto. Sì, sì, sì. Sì, c'è un mix analogico, c'è un master analogico dietro. Quindi un bel lavoro. Un bel lavoro fatto da Giacomo Fiorenza, che ha fatto dei mezzi miracoli anche lì. È uscito un bellissimo suono, di cui sono tuttora soddisfatto. Che ha catturato Luca, assolutamente. Sì. Il suono che ha catturato Luca. Quello è no, beh, devo dire che il risultato finale, quando è stato poi ascoltato dai vari partecipanti, non tutti sono stati tutti soddisfatti. Anche te, chiaramente. Anch'io, chiaramente, sì, sì. Quindi, non cambierei una virgola di quello che ho fatto. Non so, il fonico ci sarà anche nel disco nuovo? Ti darà una mano anche ancora? Sì, nel disco nuovo si cambia completamente, metodo di registrazione, si fa altre cose anche dal punto di vista tecnico. Non credo che riutilizzerò le attrezzature che ho utilizzato questo. Per questo. Altra strada proprio. Altra strada. Altra strada, anche tecnicamente altra strada. Bene, ce lo farai sentire. Sicuramente. Sì, sicuramente. Assolutamente. Qua, ci rivedremo, col disco nuovo. Benissimo. Ok, sentiamo un altro pezzo dal vivo. Renzo, che cosa ci fai sentire? Guarda, prima fuori dai microfoni mi citavi questo pezzo come altro possibile singolone. Io purtroppo non ho una tromba con me. Vediamo se riusciamo a renderlo lo stesso singolabile. Ok. Di traverso al primo assaggio, il caviale in antipasto, la sera del primo maggio nei salotti delle ville inutilmente a festa, che possa finire tutto in scandali e mal di testa, si dimettano in massa deputati e ministri, che mandino in panico vallette d'opinionisti costretti da un vuoto punibile umano a smettere di leccare il solito deretano. No, non c'è più molto da perdere. No, no, no, non c'è più niente da perdere. Stiamo qui su una zattera di gomma arancione, aspettiamo un'occasione. Stiamo qui su una zattera di gomma arancione, aspettiamo un'invasione. Aspettiamo un'invasione, presentiamo ufficialmente domanda d'invasione. Che vi vada di traverso al primo assaggio, il caviale in antipasto, la sera del primo maggio nei falotti inutilmente a festa, che possiate finire tutti tra scandali e mal di testa. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Perché tutti possono essere singoli, abbiamo citato 22 singoli abbiamo. 22 singoli, tutti i singoli possono essere sovrapposti, tutti. Allora ho preso da uno, però questo è maggio, quindi questo è maggio, questo è maggio, siamo un po' fuori stagione, però vabbè. Però va bene. Senza tromba poi non è la stessa cosa, senza basso non è la stessa cosa, però ci proviamo lo stesso. Sì, ci proviamo. Ci proviamo lo stesso a farla. Beh, se uno può interessare, cioè è curioso, prende il disco chiaramente. Sì, maggio, sì, sì, sì, sì, vabbè, questa sul disco è un'altra cosa. È un'altra cosa. Vabbè, ma è un'altra cosa, ma che questa è un'altra cosa, c'è una tua versione. Sì, chiaramente sì, sì, sei chiaramente, da solo stasera, certo. Fai quello che puoi, giustamente. Sì, sì, sì. Anche l'impatto per me che suono è diverso. Certo. Avere dei molto spesso dicono: come fai a suonare da solo su un palco? Da solo si hanno alcune sicurezze diverse. Quando si è in tre c'è uno spirito di squadra. Vero. E molto spesso ci si dà una mano, c'è della solidarietà sul palco quando si è... Ma devi resettare tutto quando sei da solo, possiamo dire così? Sì, un po' sì. Un po' resettare, sì. Visto che abbiamo un'altra tecnici, tecnologici, dobbiamo resettare. Sì, dobbiamo tutto. Resettare tutto, è un altro approccio, è più discorsivo, è diverso. Quando si è in tre si fa più musica che testo, quando sei da solo è un'altra cosa. Sì. Sei proprio da solo davanti al pubblico. Sì. E c'è una certa emozione, però, o no? Ma a me no. Devo dire meno emozione che noi in tre. Meno emozione che in tre. Quando sono da solo è più divertente, forse. Ah, è più divertente perché posso giocare un po' di più senza. Senza esporre anche gli altri due, ovviamente, perché certo, se tiro certo, un brutto certo. Scherzo ma hai un accordo perfetto con gli altri due, non ci sono sì, problemi. Sì, sì, sì, certo. Li trovate immediatamente. Sì, certamente. Ma le scalette le preparate già prima o le fate al momento? A volte al momento, al momento. Non siamo un po' selvatici anche da questo buona punto la prima, insomma, praticamente. Sì, buona la prima. Ok. Bene, 23:42, mi pare che tu abbia scelto ancora qualche traccia. Michele, ti ricordi che numero è? 20, ecco, Michele ha detto la 20. La sentiamo adesso. Sotto vuoto, spento e sporco, c'è qualcosa che non serve in primavera. Senza luce si conserva nel fracasso, si consuma ore perse in muschio ed uva. Se cercando un compromesso capitasse di ammalarsi senza cura di curiosità morbosa, si potrebbe fare un cambio di stagione ed dare aria in abbondanza. La flagranza o gioia, lungimiranza e soia. Io che aspetto e tu che taci. Due sinonimi di attimi atti al nichilismo audace. Troppi strappi nella giacca e pochi margini di errore. Tempo speso spesso male. Qualche vuoto di memoria che ci aiuta senza dubbio perlomeno a fare finta di star bene. Puoi privarsi del superfluo per dividere l'affanno e tutto il resto. In abbondanza e noia, senza flagranza o gioia, lungimiranza Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo sentito questa soia, praticamente parlavamo con Luca, Luca è quello che suona la tromba, sì. Parlavamo con Renzo, il discorso che questo è un pezzo in cui Luca, cioè il trombettista, può andare, può allargarsi considerevolmente. Sì, questo è un brano musicalmente che si presta molto. Il testo è molto importante. E anche un cantato sofferto, secondo me, Renzo. Cosa sì, anche il cantato fa dei piccoli spostamenti di semitono, non si sposta molto. Di questo live ne faccio una versione ancora più apatica. Più nera, più dark, nel senso del termine. Più spenta. Parlando ancora. Di Cure. Sì. No, è bello che ci siano anche queste canzoni all'interno di un album. Certo. Deve esserci un movimento. Poi, ovvio, le tematiche affrontate possono essere tutte più o meno appartenenti a un unico filone, però spostare anche l'intenzione dà un pochino di movimento. Casualmente è finita in fondo. Casualmente. Sono per ordine alfabetico. Sono in ordine alfabetico. Esattamente. Sì, io quindi... ho inteso l'album come raccolta, nel senso proprio più stretto del termine. Non ho voluto fare ragionamenti su cosa poteva andare prima, poteva andare dopo. Ho lasciato la scelta così, all'ordine alfabetico. Esattamente, quindi non c'è nessuno. Democratica al 100%. Al 100%, quindi, quello che è è venuto invece con un suo dinamica, esatto, devo dire. Con suo ordine, vero? Sì, con un suo ordine. Tra l'altro l'ultimo pezzo si chiama Via. Certo. Quello conclusivo, quello con cui concludo anche i concerti. Quindi sembra strano, però è così. Sembra strano, ma è così. Esattamente. Sì, sì. E dicevi che questo pezzo è molto amato anche nei concerti. Sì, è molto amato. Viene richiesto. Viene richiesto. Stranamente è uno dei più malinconici, dei più appunto apatici, però viene richiesto. Abbiamo citato un aneddoto su Lettera, che quando nei tuoi concerti qualcuno ti ha scritto un bigliettino in cui diceva... Sì, ho ricevuto anche la richiesta. Lettera è quella del pianoforte per gli ascoltatori. Lettera da fare per forza. Esatto, Lettera da fare per forza. Quindi era uno che ha partecipato a un tuo concerto, ha molto amato questo pezzo ti ha richiesto assolutamente. Per forza. Bene, una cosa positiva. Ovviamente l'ho fatta volentieri. Bene, adesso sono le 23:49 quasi, abbiamo ancora tempo per suonare qualcosa. Sì, Renzo. Allora, io ti posso fare un pezzo che non faccio quasi mai. Che si chiama Cane. È tratto da un fatto di cronaca vera. La cronaca vera in questione è quando sono andato a adottare il cane che è diventato il mio fedele compagno di vita. E parla proprio di quel giorno. Niente di più, niente di meno. Benissimo. In 10 minuti di macchina sulla San Vitale ci siamo lasciati alle spalle una noda dimenticare. Abbiamo ascoltato musica, riso poco ma volentieri. Si è parlato di cose leggere, tralasciando discorsi seri. Il giorno in cui prendemmo un cane fu un giorno di festa tra mille tempeste diverse ed avverse. Il giorno in cui prendemmo un cane fu un giorno diverso da cui ripartire per ricominciare. Oh no, oh no, oh, oh no. Di macchina sulla San Vitale abbiamo portato a casa qualcosa da ricordare. Abbiamo ascoltato musica, riso poco ma volentieri. Si è parlato di cose leggere, tralasciando i discorsi seri. Il giorno in cui prendemmo un cane fu un giorno di festa tra mille tempeste diverse ed avverse. Il giorno in cui prendemmo un cane fu un giorno diverso da cui ripartire per ricominciare. Oh no, oh no. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Benissimo, è un pezzo che fai sentire poco. Ci fa piacere che hai fatto sentire questa sera. Sì, anche questo richiede un ambiente un po' particolare, un inizio un po' parlato. Certo, un po' quasi narrato. Sì, c'è bisogno del giusto ambientino. E poi c'è l'esplosione totale, finale. Sì, poi c'è l'esplosione un po' folk finale. Sì, decisamente folk, assolutamente. Sì, da folk. 10 minuti di macchina sulla San Vitale. No, è la storia, minuto per minuto, del giorno in cui... Ti è andato a prendere questo cane. Sono a prendere il cane, sì. Che è diventato da parte della tua famiglia, sì, sta là sta seduto e ascolta quello che ascolta tra l'altro a volte riconosce quando faccio questo brano, si avvicina, perché è stata una delle prime cose che ho suonato quando lei era ancora molto piccola, quindi probabilmente qualcosa di imprintibile l'ho ricevuto. Quindi un'ascoltatrice attenta con le orecchie che si sdrona, appunto. Decisamente. Sì. Dunque, abbiamo circa 10 minuti verso la fine del programma. Io penso che ci sia ancora una traccia da far sentire, o no? Sì. Ok, sentiamo allora, direttamente. Ne avremo di anni da spendere, ma le prima della pensione ne avremo anche troppi. Giorni nati corrotti, tasse, imposte e salari, ricerche continue, tra viaggi e famiglie, salse di mie foglie, telefoni e foglie. Mi avremo di cose da dire ai nostri clienti, di abbracci ai parenti, cornetti mangiati in partenza, biglietti, lucette, salotti, finestre, ricordi e stoviglie, portiere e maniglie, telefoni e foglie, telefoni e foglie, telefoni e foglie, telefoni e foglie. Ok, dobbiamo parlare un momento di questo pezzo che è breve, però è denso di significati musicali. Sì, è intenso. Intanto il titolo che non abbiamo citato. Allora, il titolo è Foglie. Ok. È una specie di mantra, un po' ossessivo, in cui Francesca dà meglio questo di se stessa. Ritmo serrato, scanditissimo, molto scuro. Una rockettara al 100% qua. Sì, lei è indixiana quasi, possiamo dire. No, anche lei se suona il basso, chiaramente. Lei ha questo basso che a me piace moltissimo, che è scurissimo, e molto, molto, molto netto. In questo brano, devo dire, si sente proprio la sua influenza decisa. E poi c'è questa salita verso il nulla finale, che è abbastanza significativa del brano, che è un elenco disordinato di cose quotidiane, di incombenze, di una giostra di immagini, e si chiude con questa salita. Avrebbe potuto continuare l'elenco, però... L'hai fermata, l'hai stoppata. Sì, l'ho tagliata. Dal vivo? Dal vivo si fa in trio, si fa molto bene, si fa allunga, anche... Si allunga? No, rimane così con questa salita verso il nulla. E dal vivo poi c'è anche un impatto sonoro maggiore, degli effetti un pochino più duri. E quindi l'improvviso termine, quasi noise, possiamo quasi dire. Noise. Possiamo dire questo. L'improvviso termine della canzone è ancora più forte. Sì, questo è il brano più corto in assoluto, 1:07. Però denso di significati musicali, sì. Assolutamente. Sì, assolutamente. Ok, abbiamo finito questa lunga cavalcata verso abbiamo la finito mezzanotte. Questa lunga salita verso... Sì. Ma abbiamo finito parlando di musica, è una cosa molto positiva. Sì, è stata una bella chiacchierata. Ricordiamo i tuoi punti di riferimento. Innanzitutto l'album, il titolo dell'album. Allora, l'album si chiama Ossidrile. Nel dubbio è il tuo progetto. Il progetto è nel dubbio. Dove si può trovare? Si può trovare sicuramente su tutti i maggiori distributori di musica digitale, iTunes, Amazon e così via. Si può trovare e ordinare sul sito dell'etichetta garrinciadischi.it. Si può trovare i miei concerti sul sito Garrincia, ci sono tutte le date future. Oppure, non lo so, potete trovarlo per strada, potete trovarlo sugli alberi, non lo so, dipende dove lo, lascia, dove lo lasciano in giro. Però sì, è trovabile. Certo, grazie a Renzo Picchi, grazie a Michele Toson, che è stato il regista più importante, che ha praticamente portato avanti il programma, grazie a Roberto Baldi e anche al nostro direttore artistico Alberto Pisco. Noi ci sentiamo la prossima settimana e terminiamo con un altro pezzo tuo, Renzo. Sì, terminiamo con un altro pezzo, Quieto. Grazie e buonanotte. Stai vicino a me, non è facile, attraverso la città, che tristezza, è tutto qui, è così, è tutto qui, non spererai seria di riuscire, passi stanchi senza senso, aspettando ancora un po', vuoi aprirti di più, è quasi ottobre, io non ci sono. Se tu senti pudore, è come in un libro d'un film sopravvivero. Mi troverai, mi troverai, mi troverai, io no. Non ci sono più le tue scuse e ora che si fa, mi troverai, mi troverai, oh no, non ci sono più le tue scuse e ora che si fa. Penso che per te non sia facile, senza credere di essere diversi, sì, ma mai così. Io, tu, lui, eravamo lì, no, non più, no, non più, dico, ci sono più. Come va? Giuro non vorrei averti qua. E anche così di giovedì, forse tu provi rancore. E come d'un film io me ne andrò, mi troverai, mi troverai, oh no, non ci sono più le tue scuse e ora che si fa, mi troverai, mi troverai. Sono più le tue scuse e ora